Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Mappe aborigene. Desidero parlarvi in questa puntata di Ondivago della mia visione delle mappe. Vi anticipo che le mie mappe sono assolutamente inesatte, ma non voglio andare oltre per il momento. Inizierei con questo brano dedicato al tema. Mappe. Me ma mappet. Mappez. Mappam. Mappe. Però mappe. Eppa, eppa, eppa. Mappe, mappine, mappette, mappezze, mapparelle, mappuzze, map, mappuzzarielle, mappardelle, mapparelle, mappulzelle, mappacchie, mapponzole, mappistole, mapponchiole, mapparelle, mais, ma, mappet, mappez, mappam, mappe, pam, pam, però mappe, eppa, eppa, eppa, mappe. Prendiamo ora un mappa mondo, cioè una mappa che è stata pulita con una sfera. Una sfera schiacciata ai poli dal passo pesante degli orsi polari. Il mappamondo contiene l'eco di uno sparo, come potete sentire avvicinando l'orecchio al pianeta delle scimmie. Poi potrete notare che i primati disegnano, sulla superficie del roteante giuoco, l'Europa sempre più grande degli altri incontinenti. Sì, perché il segreto è questo. Chi impone le mappe pensa di essere il sovrano. Traccia due assi da stiro, divide il bene dal male e poi cerca di imperare e di imperativizzare. I mappatori sono noiosissimi, vogliono scannerizzarti la vita e, se possibile, anche quella futura. Tra 2 chilometri, svoltare leggermente a destra. Poi scopri che le mappe del navigatore hanno la stessa efficacia della medicina ufficiale. La stessa supponenza nel portarti orgogliosamente fuori strada, nel propinarti l'antibiotico che abbasserà le tue difese asfaltandoti anche la flora intestinale. Le indicazioni stradali sono imprecise e vuoi perfezionarle? Le mappe sono legate ai concetti di spazio-tempo occidentali, alla sete di conquista, al rumore delle armi. Armi ora anche telematiche, automobili dotate di telecamere vanno alla conquista di nuovi territori da rivendere in rete, da irretire. E noi contenti e sfavillanti come pesci al cartoccio. Diritto alla rotatoria, prendere la terza uscita. Alle mappe geografiche oppongo la psicogeografia e la deriva dei situazionisti. La possibilità di ridare ai luoghi il loro valore emozionale e di effettuare percorsi solo sulla base delle nostre sensazioni. Alle mappe oppongo il diritto di perdersi, perché perdendosi ci si ritrova. Le strade altre svelano le strategie nascoste, demoliscono la mistificazione del turismo, della retta via e delle stazioni di preghiera allo scaffale del consumo. Siete in prossimità dell'uscita? Alle mappe occidentali oppongo i tracciati, o meglio, gli stracciati degli aborigeni australiani, i quali, gioia dell'antropologia culturale, si muovevano senza alcun parametro spaziale o temporale, ma solo seguendo le fonti del cibo. Alberi da frutto come segnali stradali, viaggi punteggiati di vitamine, rientri non garantiti al villaggio, partenze slegate dal ritorno. Aborro, rinisco, arboresco. Aborigeno, arborigeno, aborro, rinisco, arboresco, indigeno, fumogeno, fedifrago, ondivago, assolo e annuvolo, a cartoccio le mappe le accendo. Hanno una pessima carta, invecchiano subito. La gente ci vuol trovare tesori. Io son aborigeno, preferisco la frutta. Tesoro mio, andiamo al nocciolo. Io aborro, rinisco, arboresco, infradito, parto, fuoriesco, mi assento per un quanto di luce e lucignolo, mi balocco, non cercarmi, mi balocco, non cercarmi. Comprati un chewing gum alla clorofilla e guardati un documentario, stai fresco. Aborro, rinisco, arboresco, aborro, rinisco, arboresco. Spezzerei una lancia unicamente per la mappatura dei nei. Sì, avete capito bene, la mappatura delle macchioline della pelle. Dicono che l'operazione contabile possa rientrare in una diagnosi contro il cancro. Attività che si può proporre, senza esitazione alcuna, a persone conosciute da poco. Scusa cara, potrei mapparti i nei? Nell'operazione dermosituazionista potrei amarti, scoprire il tuo codice nosologico. L'uva passa della pelle di chi amiamo. L'unico territorio meritevole di mappa, tracciati sensoriali al limite dell'inconscio, scie di lumache inebriate. Spezzerei una lancia unicamente per la mappatura dei nei, per i neologismi. Quindi la destinazione è avanti sulla sinistra. E poi le mappe le vedo anche un po' come pagelle scolastiche. Sono le pagelle delle città. Alcune segnano anche i luoghi pericolosi, cioè le materie in cui l'alunno urbano pecca. Gli misurano l'intelligenza con i punti di interesse storico, la condotta con la regolarità degli assi stradali. Le city maps sono pagelle e sono dogmatiche, ma non mettendole i lettori darebbero per veri luoghi che non esistono. Quando l'installazione sarà completata, dovrai solo cliccare sul tasto fine e poi chiudi. E le tue mappe saranno aggiornate. Le mie mappe, come avrete capito, sono delle non mappe, percorsi inesatti che guardano alla poesia. In senso lato e senza alcun riferimento etnologico, le chiamo mappe aborigene. Con le mappe aborigene propongo dei percorsi di cui i veri padroni siamo noi, con il nostro sentire e la nostra voglia di scoprire e scoprirci. Sono mappe, quelle aborigene, che non sfruttano e non hanno paura dei pericoli. Sono mappe, quelle aborigene, con le quali possiamo raggiungere i liberi territori dell'essere. Grazie per l'ascolto di questa puntata di Ondivago. Un saluto psicogeografico da Max Ponte. Ondivago.com